ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Timidi segnali di ripresa arrivano dai dati sull'occupazione, che il luglio rialza la testa, ma la pandemia ha fatto perdere quasi 500.000 posti, in gran parte autonomi e contratti a termine, visto che c'era il blocco dei licenziamenti. Bisogna ripartire anche da questi numeri per pensare a come spendere i soldi europei che, ha ribadito ieri il commissario Gentiloni, arriveranno nel 2021 e non possono essere usati per tagliare le tasse. Come bisogna muoversi? Guardando anche ad altri numeri, quelli della pandemia. Ieri un calo dei contagi, ma i ricoverati in terapia intensiva tornano sopra quota 100 e l'attenzione è puntata ovviamente sulla strategia di contenimento. Servono 30 milioni di tamponi, scrive oggi il Sole 24 Ore. E poi c'è la politica, che attende le regionali, con un Nicola Zingaretti che sente aria di complotto anche interno, raccontano i giornali, per sostituire sia lui che Giuseppe Conte. Un'aria di complotto che si respirerebbe anche dalle parti del Movimento 5 Stelle e della quale lo scontro in atto sulla proroga dei vertici dei servizi segreti sarebbe l'espressione. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Mattino di Simone Spezia. Che poi, amiche e amici miei, va preso tutto con le pinze, perché si sente aria di complotto intorno a questo governo praticamente da quando è nato, perché c'è un sacco di gente insoddisfatta là dentro, C'è un'Italia Viva che cerca rappresentanza, cioè maggiore spazio di manovra. C'è un Luigi Di Maio che tutti raccontano che è un pochino là, che non gli piace questo ruolo, per quanto importante, da ministro degli esteri, di fatto di secondo piano. Ci siamo! Buongiorno a tutti, è mercoledì 2 settembre, sono le 6:31 minuti e 10 secondi. In regia c'è Carmelo Lauricella, in assistenza in redazione Giorgio De Luca. E il resto della redazione è composta come sempre da Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera e i nostri autori Margherita Aina e Francesco Ciaraffo. E poi ci siete voi! Soprattutto voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, le vostre voci. Se volete anche un po' sul governo, perché iniziano a girare un po' queste, come vi dicevo, queste ipotesi di complotto. Fatto Quotidiano oggi scrive che ci sarebbe Stefano Bonaccini pronto a sostituire Zingaretti, con Renzi che rientrerebbe nel PD. Ah, il fascino delle manovre. Il fascino delle manovre di palazzo. La realtà è che stiamo guardando ad altro, stiamo guardando a questi dati, appunto, sull'occupazione, che sono quello che sono, ci segnalano quello che è. Ossia che, appunto, chi ha perso il lavoro sono in gran parte autonomi e contratti a termine. E indovinate un po', chi sono queste persone? I giovani. E chi l'ha pagato il prezzo della pandemia dal punto di vista del lavoro? Esattamente loro. Chi l'ha pagato dal punto di vista dello stop delle elezioni? I giovani. Ma guarda. Strano, questo paese tende a valorizzarli sempre, quindi curioso. Un po' di voci di giornata, va, iniziamo da cosa? Direi da proprio la questione della scuola. Lo facciamo con il ministro agli affari regionali Boccia. il quale fa sapere: le linee guida sono comuni a tutte le regioni, nessuno ha rinviato l'inizio della scuola e però le regioni sono libere di spostare l'inizio delle lezioni. Non c'è nessuno spostamento, nessuno slittamento. Abbiamo ribadito ieri che se ci sono regioni che ritengono di ripartire dopo le lezioni, perché ritengono, diciamo, utile fare un'unica sanificazione delle scuole, perché come lei sa le scuole sono utilizzate come seggi elettorali, certo, da sempre, possono farlo quando lo ritengono, come hanno sempre deciso nella loro storia. I presidi, il presidente dell'associazione presidi chiede una revisione soprattutto della responsabilità, dei rischi che corrono i presidi dal punto di vista anche penale. Sentiamo. Ben lungi dal chiedere scudi penali e cose del genere, abbiamo chiesto una attenuazione della responsabilità penale, soprattutto nella veste di datori di lavoro. Ecco, noi vorremmo essere tutti più sicuri e più tranquilli che una volta attuati i protocolli non si possa contestare nulla di più. Insomma, il punto è proprio questo: io sono il dirigente scolastico e non voglio che se un docente, un... come si chiama? Mi viene da dire bidelli, ragazzi, la definizione esatta, operatore scolastico, mi dice Carmelo Lauricella della regia, mi corregge, operatore scolastico, se un operatore scolastico si becca il Covid, non voglio essere ritenuto responsabile penalmente. Il viceministro Sileri, che sarà tra l'altro nostro ospite alle 8.30, sulla questione della capienza dei bus, ne abbiamo parlato all'infinito ieri, l'80% che poi è un 100% e che poi non sappiamo cosa succederà esattamente nel momento nel quale riapriranno le scuole. Scusate, sorrido, ma sappiamo com'è. Se tu hai la mascherina e rispetti la regola della mascherina, e sei anche a meno di un metro per breve tempo, le chance sono vicine allo zero che tu possa contagiarti. Noi dobbiamo portare le chance vicine allo zero, lo zero assoluto non esiste purtroppo, però dei trasporti che abbiano una capienza superiore al 50%, non del 100%, con le persone che tendono a tenersi a distanza, aumentare il numero delle corse per far sì che ci sia maggiore distanza laddove possibile, ma soprattutto l'utilizzo della mascherina e il gel igienizzante riduce notevolmente queste chance. Boh, non so, voi non... mi è chiaro cosa ha detto Sileri, nel senso, il senso della frase l'ho capito, però se avete capito voi che cosa succederà il 14 settembre quando i ragazzi dovranno andare a scuola con gli autobus o con i mezzi pubblici, perché io non ho capito esattamente cosa succederà quando cosa dovranno fare gli autisti degli autobus e via dicendo, però iniziamo a far due chiacchiere con Francesca Sforza della Stampa. Ciao Francesca, eccoci, buongiorno, bentornata. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Senti, ma tu ci credi al complottone contro Conte e Zingaretti? Perché ormai se ne parla esplicitamente. Devo dirti che di complottoni contro questo esecutivo e contro Giuseppe Conte ne abbiamo sentiti fin dall'inizio, fin dalla nascita della maggioranza cosiddetta giallorosa o giallorossa. Sì, ma guarda, infatti sono assolutamente d'accordo con quello che dicevi prima. Mi sembra tutto uno scossone da crosta superficiale. Ho l'impressione che si tratti di scontri veramente che mostrano singole debolezze, quindi somma di singole debolezze, ma non una crisi profonda, e soprattutto mi sembrano molto distanti e anche un pochino incomprensibili ai cittadini, distanti dalla vita dei cittadini e difficili da interpretare, insomma, per chi non si interessa proprio alle technicalities della vita di governo. Sì, un pochino di lasciano un pochino perplessi. C'era ieri appunto questa lettera di Zingaretti a Repubblica, poi oggi tutti i retroscena che circolano. anche questo scontro che c'è stato, lo riferisco agli ascoltatori, per quanto possa sembrare una questione di poco interesse, però una questione politicamente rilevante, qualche giornale ci apre, è stato presentato da una deputata del Movimento 5 Stelle un emendamento che fa sì che sia bloccata la proroga dei vertici dei servizi segreti, e questa viene interpretata come una mossa contro il presidente del Consiglio Conte, il quale ha il controllo e la guida dei servizi segreti. Anche qua, mamma mia Francesca, se ricominciamo in questo modo, diventiamo matti davvero. No, anche perché poi le cose importanti invece ci sono. Le cose importanti, parliamoci chiaro, la cosa centrale su cui a torto ha ragione, perché probabilmente non è neanche così giusto, il governo si gioca il suo futuro, è veramente la riapertura delle scuole, e lo è in un modo particolare, perché insomma la mia impressione è che rispetto ad altri paesi europei l'Italia sia in questo momento proprio nella situazione di dire se va male è colpa del governo, no? C'è proprio una lettura che insomma è anche, se vogliamo, un po' paradossale. Forse Francesca, anche un po' eccessiva a dire il vero. Sì, perché no? Vediamo in Francia cosa è successo, in Germania, guardiamo anche gli altri, delle volte può aiutare. Purtroppo le scuole riaprono, i contagi risalgono, quindi le scuole richiusono, e quindi ci si aggiusta un po' come si può. Questo è quello che è successo nei paesi che hanno già riaperto, e questo è quello che probabilmente succederà anche da noi. Allora si può incolpare un governo fino a un certo punto. È chiaro che la nostra edilizia scolastica non era all'altezza della pandemia, ma questo non possiamo imputarlo soltanto a questo governo, è una roba antica che adesso anzi avremo la possibilità di risolvere se utilizzeremo bene le risorse europee. Sicuramente, questo è l'altro grande tema, sarà sicuramente il tema della settimana prossima, perché ci sarà la prima riunione di questo comitato, l'abbiamo raccontato, sì, presieduto da Enzo Amendola, che avrà il compito di redigere dei piani. Ieri il Sole 24 Ore parlava di già 100 piani sul tavolo del governo per impegnare 150 miliardi di euro, però il punto è che i soldi arrivano nel 2021, a giugno 2021, ha detto Gentiloni ieri. Ha detto anche, se avete pensato di utilizzarli per tagliare le tasse, beh, scordatevelo, perché non è per questo che devono servire, devono servire per lo sviluppo. Facciamo una cosa, sentiamoci anche un passaggio di Paolo Gentiloni ieri, ha detto una sfida cruciale per il nostro futuro, sentiamolo. Va. Sappiamo che siamo di fronte a una sfida che è quella di essere all'altezza di una crisi senza precedenti e anche di decisioni senza precedenti che sono state prese dalle istituzioni europee assieme ai governi nazionali negli ultimi 4-5 mesi. Questa sfida sarà cruciale ovviamente per il nostro futuro. E questo è chiaro, ed è una sfida cruciale, mi pare, Francesca, anche per il futuro dell'Europa, il come verranno utilizzati questi fondi, perché nel momento nel quale ci sono state tutte quelle concessioni dai paesi cosiddetti frugali, forse non quante ne avremmo volute noi, ma lo diciamo sempre, è una trattativa, quindi da una parte ci sono loro, dall'altra ci siamo noi, che tiriamo, ognuno tira la corda dal suo lato, e poi si arriva ad un punto di compromesso. E però il come li spenderemo e come l'Italia si presenterà a questo appuntamento, il maggiore beneficiario di questi fondi, quello è un punto fondamentale anche per capire dove andrà l'Europa, no? Sì, e la cosa personalmente che mi preoccupa è che non abbiamo un buon curriculum sul modo di spendere i soldi, perché le risorse noi le abbiamo sempre avute e sempre utilizzate piuttosto male. Detto questo, io credo che ci sia una profonda consapevolezza in una parte almeno del governo che siamo di fronte a una possibilità unica nella storia del paese, cioè quella di utilizzare queste risorse al meglio e per ottenerle e per dare al paese una chance che non si ripeterà, e mi auguro, ma su questo veramente spero anche che il giornalismo italiano, quindi insomma ognuno di noi sia all'altezza anche noi di questo compito, cioè di raccontare davvero con attenzione, senza diciamo manie o eccessi, ma proprio con perizia e con attenzione quanto succederà sulla destinazione di questi fondi, sì. Perché credo che davvero sia un'occasione per tutti, un'occasione non solo di rinascita, ma anche di serietà. Sì, sì, io devo dirti, Francesca, che il lavoro che andrà fatto da noi giornalisti, ma un po' da tutti, è in realtà quasi un lavoro di controllo successivo, cioè più che la decisione dell'impiego dei fondi, lo diciamo sempre, certo. Il tema di questo paese è la dico anche qua, un termine inglese, mi perdonerete, è l'execution, cioè come poi vengono messi a terra i progetti, come vengono realizzati, quanto ci metti a farli, la grande questione è questa, e lo sappiamo perfettamente, lo sappiamo da tempo, e quella sarà la sfida della verifica. Tutto questo si deve confrontare con i numeri della pandemia, con i numeri della pandemia. Ieri Nino Cartabellotta e la Fondazione Gimbe ha parlato così, sentiamolo. Che siamo di fronte a un incremento dei nuovi casi settimanali, questo è assolutamente realistico. È altrettanto vero che la maggior parte di questi casi sono asintomatici. Quello che però preoccupa è che questo accumulo di casi asintomatici, che poi dobbiamo ricordare sono sempre una parte di quelli che realmente esistono, si comincia a riflettere da qualche settimana anche sull'incremento dei pazienti ospedalizzati e in misura minore su quelli della terapia intensiva. Il punto è proprio questo, bisogna fare un po' di attenzione. Voglio dire all'ascoltatore, me lo scrive, non è che stiamo sottovalutando l'importanza della vicenda dei servizi segreti, della questione del Movimento 5 Stelle, dell'emendamento presentato per bloccare la proroga dei servizi, assolutamente. Stiamo semplicemente dicendo che bisogna capire se leggerla come un complotto, alcuni dicono addirittura di Luigi Di Maio contro Giuseppe Conte. Stiamo semplicemente dicendo che insomma, forse non è proprio il momento questo di iniziare, di ricominciare a fare questi giochi di palazzo. Forse è proprio questo il momento, visto che arrivano le regionali, non lo sappiamo esattamente. O forse è proprio questo il momento, e questo pensano i partiti, perché sono in arrivo i quattrini europei e quindi tutto sommato un'idea di assalto alla diligenza, un po' come sotto manovra, c'è. Traffico. Mattino. Le fai ascoltare una bella notizia ogni tanto. È nato il mio 12° nipote, dall'ultima delle mie 4 figlie. Ma grandissimo, grandissimo, un super abbraccio alla nipotina. 4x3, 12. Noi trigenitori sappiamo esattamente che cosa vuol dire. Dai. Allora, sì, la parola italiana è esecuzione, realizzazione. Per favore, l'italiano è bello. Sì, ha perfettamente ragione lei. Però ho voluto utilizzare un termine aziendale, execution. Chiedo scusa, per carità. Del resto abbiamo usato task force al posto di squadra per 3 mesi. E chissà dove sono finiti tutti i rapporti. A proposito di execution, veniamo ai provvedimenti che hanno i bonus, i bonus auto, i bonus bici. Che fine hanno fatto? Ieri per quello auto, per gli incentivi auto, si temeva una sorta di click day con esaurimento rapido delle risorse. Per il bonus bici, quanti di voi si sono fiondati in un negozio di bici, hanno ordinato su internet una bicicletta e adesso sono là che aspettano e dicono: ma questo bonus che avevano varato, quando me lo danno questo bonus che avevano varato? Iniziamo da qua. Piero Nigrelli, direttore del settore ciclo di ANCMA, l'Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo, Accessori, Confindustria. Nigrelli, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua. Ma che fine ha fatto questo bonus? Dove è fermo che non sappiamo come richiederlo? È vero, ancora non si sa come richiederlo, ma possiamo dire che la legge che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 di luglio stanzia innanzitutto 190 milioni, quindi i soldi ci sono, sono stati stanziati. Il ministero ha avuto e questo ci dovrebbe tranquillizzare, sì. Esatto, quindi i soldi ci sono, dobbiamo stare tranquilli su questo. Ricordiamo che il bonus parte da acquisti fatti dal 4 di maggio, per cui vale la data di fattura, la data del documento di acquisto, e quindi adesso attendiamo che innanzitutto venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo. Notizia di ieri potrebbe essere oggi o domani, quindi siamo in dirittura d'arrivo anche con il decreto attuativo. A quel punto abbiamo tutti i dati per poter far sì che il portale venga realizzato. Il portale dovrebbe essere praticamente pronto, quindi io credo che nelle prossime settimane questo portale prenda avvio e il cittadino possa caricare le proprie fatture. Ricordiamo, Nigrelli, ci sarà qualcuno che rimarrà a bocca asciutta? Questo non possiamo saperlo, perché non abbiamo nessun tipo di contezza di quello che è successo. Noi sappiamo che sono state vendute tante biciclette, di questo ne siamo assolutamente certi. Sappiamo che un incentivo medio può essere stato intorno ai 300 euro, perché l'acquisto medio di una bicicletta in negozio sarà di 500 euro. Quindi saranno tante le biciclette vendute. È anche vero che con 190 milioni di euro abbiamo qualcosa come, ipotizziamo, più di 600-620 mila veicoli incentivati. Per cui veramente tanti. Noi crediamo di sì, insomma, che tutti possano avere questo bonus. E chissà se invece è forse un po' più difficile che possano avere il bonus tutti, o meglio l'incentivo, quelli che vogliono comprare una nuova auto a partire dal 1 settembre. Da ieri alle 10 era possibile accedere nuovamente alla piattaforma ecobonus.mise.gov.it, è la prenotazione per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di categoria M1. Anche qua un bonus che era partito basso, poi è stato rifinanziato con il decreto agosto con 400 milioni. Adolfo De Stefani Cosentino è presidente di Federauto, che è la federazione dei concessionari. Buongiorno, eccoci. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Che segnali state ricevendo? Allora, innanzitutto un vero peccato che il portale si sia aperto solo ieri mattina e non il 15 di agosto, quando è entrato in funzione il nuovo decreto che rifinanziava questi 400 milioni. È stato un segnale più che positivo, ma lo sapevamo, tant'è vero che ieri sera avevamo già mangiato 46 milioni di incentivi. Il 10% circa. Praticamente, attenzione, il 10%, però nell'ambito degli incentivi il 70% di questi incentivi sono andate alle autovetture che emettono un CO2 da 91 a 110. Questo segmento, chiamiamolo così, questo range, è finanziato solo per 100 milioni. È chiaro che noi innanzitutto dobbiamo essere grati al governo, perché è riuscito a dare e riconoscere anche al motore endotermico una sua dignità, perché sembrava che dovessimo girare solo elettrico purtroppo non possiamo girare per tanti motivi, la macchina elettrica costa molto, noi concessionari abbiamo sempre venduto solo autovetture elettriche a persone che hanno la seconda o la terza macchina. Abbiamo sempre detto che dare incentivi a persone ricche forse non ha molto senso, avrebbe più senso invece dare magari un incentivo a creare delle colonnine di ricarica, se vogliamo dare lo sviluppo elettrico. Ma in modo, a parte questo commento, direi che se continua così i bonus non sono sufficienti. Tenga conto che il segmento da 91 a 110 rappresenta esattamente il 42% del mercato. Quindi innanzitutto grazie al governo, grazie al fatto che hanno incentivato realmente quello che il mercato chiede, perché poi dobbiamo incentivare quello che il mercato chiede, perché è inutile dare, che so, mezzo milione di euro a uno che compra una macchina a idrogeno. Le macchine a idrogeno non ci sono, quindi non ha neanche certo. E quindi questo è la cosa. Speriamo che il governo in sede di conversione possa essere analizzato il tutto, cioè praticamente su questi 400 milioni pur avendo naturalmente un incentivo differenziato, perché è più basso per quello che ha più emissioni e più alto per quello che ha meno emissioni, possa essere banalizzato in modo che non ci siano degli avanzi magari sull'elettrico, che poi rappresenta solo il 2% del mercato. Quindi poter muovere queste quote, questo denaro da una parte all'altra, per intenderci, no? Magari dall'elettrico spostarlo in un'altra direzione. Esatto. Ma è vero che ci vogliono così tanti documenti per avere questo bonus, Stefano Cosentino? Allora, qualche ascoltatore mi scrive 36 documenti, è vero? No, 36 sono un po' troppo. Però tenga conto che di questo se ne fanno carico praticamente i concessionari, quindi è chiaro che il venditore, ovvero la segreteria commerciale, deve chiedere alcuni documenti al cliente, ce ne vogliono alcuni necessari, perché naturalmente dobbiamo essere sicuri che non ci siano, chiamiamole così, delle truffe, ovvero qualcuno che chiede un incentivo che l'incentivo non lo può ricevere. Per esempio l'autovettura l'abbia comprata troppo recentemente, quella che vuole rottamare e così via. Però direi che tutto sommato, pur essendo un paese molto burocratico e molto burocratizzato, diciamo che sta girando tutto abbastanza bene. Quindi due categorie soddisfatte, tutto sommato soddisfatte. Abbiamo sentito, grazie a Piero Nigrelli, direttore del settore ciclo di ANCMA, l'Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori Confindustria, Adolfo De Stefani Cosentino, presidente di Federauto, la federazione dei concessionari, e grazie a Francesca Sforza della Stampa. Ciao Francesca, alla prossima. Buona giornata. C'è GR24, ovviamente ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa. Tra le altre cose, questa storia che arriva dal Messaggero, che rischia di innescare uno scontro tra regioni, perché vi si racconta che la Sardegna non ha fermato le persone con sintomi che ripartivano dall'isola e andavano verso altre regioni. GR. Simone, buongiorno. Lo sai qual è il problema? Che ci sono troppi galli a cantare. Ciao, buona giornata. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.